Zolt. Fulminati in azienda. Quanto mi stressano sti periodi de canvas. Ogni volta che se devo verificare i dati delle vendite mi si acutizza il riflusso esofageo. Li hai preparati, Pacco? Eccoli qua, dottor. Naturalmente rivisti e corretti in base alle sue indicazioni. Ecco, allora, Pacco, mi raccomando, è importante. Sì. Sul pezzo ci vuole entrambi in riunione. Non deve sapere che avremmo detto una fregnaccia sui risultati delle vendite. No, ma amico, fatto come che l'ha detto lei, eh? Il numero che presentiamo è positivo più 0,002. Ecco, mi raccomando, reggimi il gioco, Pacco, eh? Siamo una squadra o no? Che se scopre che invece siamo sotto del 30, ci manna a lavorare in miniera tutte e due. Tranquillo, dottor, sarò muto come una tomba. Siamo una squadra. Allora, Pacco e Centri, vi ho convocato in riunione per dirvi che questa volta mi avete veramente deluso. Marco, è stato Pacco. Ma Pacco, dottor, sei... la squadra. Ma cosa dite? Ma quale squadra? Voi non è un gioco qui, ascoltatemi, qui i numeri parlano chiaro. Marco, lo so, c'hai ragione. E c'ho ragione, sì, è stato un canvas da schifo. Come mai siamo sopra solo dello 0,002? Sì, già, lo so. È un momentaccio, Marco. Bisogna capire responsabilità. No, io non voglio sapere solo chi è responsabile. Voglio sapere chi è il colpevole di questa situazione. Mo me informo, te faccio sapere. Intanto ci attiviamo subito. Ecco, bravi, andate a lavorare. Attivatevi invece di star qui a pettinare le bambole. 0,002, solo 0,002, ma io li mando a lavorare in miniera questi qui. Fammi chiamare lo squalo che provo a capire che cosa è successo, ma pensa a te. Oh, ciao, sul pezzo, grandissimo, stavo a pensare a te in questo esatto momento. Ciao squalo, ciao, allora sarai da un cliente, mi immagino, ad aggredire il mercato, eh? No, veramente sto qui in trattoria da Nanda, che ti saluta tanto. A proposito, stavo mangiando la bacchiola scottadito proprio come ti piace a te. No, però squalo, NCS, non ci siamo. Tu sei da Nanda a mangiare, qui l'azienda, la nave mi va a picco. Guarda, sul pezzo non capisco, noi siamo qui sul territorio sempre aggressivi e performanti. No, a dire la verità, dai numeri, squalo, non mi risulta proprio che tu sia performante. Sul pezzo, ascolta il tuo squalo, il mio team, i miei uomini hanno chiuso un grandissimo canvas con uno splendido meno 10, grande risultato. Ma come uno splendido meno 10, un grande risultato? Ma cosa stai dicendo, squalo? Ma se mi risulta che complessivamente abbiamo fatto più 0,002, come fate a essere a meno 10? Fate schifo, ma cosa mi dici? E ti dico che ti hanno detto una fregnaccia, Marco. Ma come una fregnaccia? Come? Ma Marco, ma dove vivi? Lo sanno tutti, ma che davvero tu non lo sapevi? Ma no, squalo, non è che... Ma certo che lo sapevo, sul pezzo sa tutto. Volevo solo vedere se eri attento. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.